parte. Ora, adesso devo dirci, c'è qualcuno? Ho ragione io a chiamarlo il canale dei morti, 921 Antonio. Un attimo, basta lì, fammi arrivare. Catalino. Sì. Mamma mia, stasera è proprio una lagna di nobbie. Ma che fine ho fatto? Non ho capito, no. Ha detto che non si intende nessuno ai nobbi. Certo, tutti baffarati sono. No, questo è il canale dei morti, è per quello che non si sente nessuno. Molte volte vado per un fenomeno come un peccato incontinente quando andava grande, quando è. E poi lo sta lì, tutto a posto. Sì, tutto a posto, da munire a posto, Ho acceso già un bel pomo, ce l'ho acceso. Perché io di solito uso la 48 perché la verità mi piace di più, come apparecchio mi piace di più. È piccolino, a me va bene. Cavolo, non vuole, non è tutto nessuno, due portanti, così via. Se vuoi che ti dica, io sono rientrato adesso, capito? Sono rientrato. E praticamente è un macello. Ho sentito a te, sono entrato per quello. Una bella giornata oggi, una bella giornata. Aspetta un attimo, sto guardando una cosa. Ok Natale, non ti preoccupare. Avanti, avanti, chi è? Attento compagno. Chi è avanti? Antonio. Sì, mi Natale. Sì, stavo guardando una cosa su Amazon, però no. Non c'ho soldi nella carta, bisogna che la carichi a fanguarla. È un freddo, dura. Sono appena durrendi, gatta, che stava facendo una domanda. Allora, Barbara, Uccica. E beh, a proposito, come è uscita Raffaini? Buonissima, buonissima proprio. Di lusso esce. Ma infatti non li compare giù più. Ma manco per sogno, no. Cioè, andavo in casa, quando mi dà giù di mania, me la passo in casa e non ne compare giù più, no. Ma se non posso spendere 20 euro, cazzo, quando con 20 euro, se ti vedi me ne posso 3 tegli. Non esiste. E infatti, poi ci vuole più buono da te, in casa tua, quello zuvona. E ci vuole buono di chi sei con pareggi. E tanto poi c'è uno di questi pacchini di farina. Ma va, io me la devo comparare, ma te. Ma invece tu vuoi pure un Conad? Ma anche Conad, quello che c'è lì alla Feroce. E anche, ma penso che ci sia anche negli altri Conad, non lo so. Non si può comparare, cioè ma sto scherzando, questo costa 2 euro, cioè ti facciamo il conto. Quanto costa? 2,50 euro, fai anche 3 euro, ma cosa di fare mezzo chilo di fare in getto. Cioè, io comunque cosa che ti dici ne posso? Cioè, ma bufonendi sembra cosa, cioè ma quanto guadagnano che sa niente, scusami. Cioè, un po' di ziotta, facciamo che devo comprare anche le cipolle. Cosa costa un coso di ziotta? Cosa costa? 1 euro, 2 euro, un poco di ziotta. La salsiccia, cosa vuoi che costa? Siamo ben lontani da 20 euro, cioè da 18 a 20 euro quanto la vendono, siamo molto lontani siamo. Ma chi ci sono macchi? E poi loro la pagano all'ingrosso, la pagano di meno di te, la farina di ciccio. Cosa ti credi? E ti la pigliano a sacchi da 50 kg, la pigliano. La pagano invece banco di carta da paghi giù, quindi guadagnano ancora di più. Ma appunto bagisso, ma che mi devi scegliere da me? Ma così lo sa. Cioè quando zio la pago 2,50 e deve pagare 1 euro, con 2,50, tutto il resto è tutta busciaccara, tutto il resto è tutta busciaccara. Perché è incredibile, no? Non si può pagare una farina così cara. A me la posso in casa, oggi posso che ciambro di tamburo, cucina e ciambro e metà croccante. Ma pure addio, dammi il buon che mi esce da mezzo, mi esce. Sì, infatti. Ma anche senza cipolle, vista la quanto sei buona. Poi fa pure senza ziota, ma se fai una ziota, puoi fare una salsiccia, in tanti modi si può fare. Ah, poi io mi arrumo la sento, ma appunto cosa... Sì, infatti, ma va, domani ti dici quando... Aragona deve la biglia buruire, la farina, chi l'ha già finita, non ha già. E così me lo posso diluire, alla faccia di canno tutto. Allora, oramai ho scoperto come fa la bella croccante, ho scoperto un trucco, ho scoperto anche, altro che il nome è che gusti già, altro che il nome. E te credo, poi col coso della cucina che è fatto con i mattoni, lo sai quanto c'è bene, cucina proprio bene. È un coso, è una pietra, è un messo sopra, i canti, ma non sai quanto esce buona, i canti pure rugosi, i canti, come ti dicevo, non mi si bruciava niente, stamattina ho provato anche col pane, non mi si bruciava, no. Un di mattoni tutti noi già avessi, un di le acciappate di mattoni anche tu, di chi si refrattari. Vabbè, io ho preso un pezzo di mattone da, a centro casa. Dove li hai trovati? A centro casa, cioè, aspetta che mi sta dicendo cosa mia moglie. Cappa, appena poi ti devo lasciare. Tutti la mole 30 rubori, chissà me. Da qui la fai un po' guarire, cioè per la prima volta la fai un po' capire, due cose. Da qui poi te la fai lì dritto, avessi cotte. Ruia. Aspetta che un attimino devo andare a fare una cosa a mia moglie. Ehi, fate bravo però, mi. Ehi,